Salva Danaio con Valentina Furlanetto. Buongiorno, bentrovati da Valentina Furlanetto. Oggi parliamo di fondi pensione. Quanto rendono i fondi pensione? Hanno battuto in questo periodo post-crisi il TFR? È ora di pensare di trasferire la nostra liquidazione, il trattamento di fine rapporto a un fondo pensione se non l'abbiamo già fatto? Di questo parleremo oggi in diretta con voi, grazie al contributo di alcuni ospiti e alle vostre domande. Se vorrete porcele all'800 24 00 24, al 349 238 6666. Tra l'altro mi fa piacere, arrivano già alcuni sms, tra cui quello di Maurizio da Parma, che pone un po' l'attenzione su alcune sfide che vedranno davanti questi fondi pensione. Ne parleremo con alcuni ospiti. Do il benvenuto con onore a Marco Loconte di Plus 24. Onore mio. Piacere mio. Ciao, onore in quanto buongiorno. Conduttore storico di Salva Danaio. E al telefono Sergio Corbello, presidente di Asso Previdenza. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, intanto, ciao Marco. Ciao. Voi vi conoscete bene, sì. Chiaramente, perché Marco Loconte per Plus 24 si occupa spessissimo di fondi pensione, insomma è la sua specializzazione. Intanto vi posso anticipare che nei primi tre mesi dell'anno il rendimento medio dei fondi aperti è stato pari al 2% circa, contro lo 0,5% del trattamento di fine rapporto. Quindi hanno avuto ragione quei lavoratori che hanno trasferito la loro liquidazione nei fondi. Nonostante i rendimenti interessanti, però l'adesione non è ancora alta. Come mai? Quali sono i dubbi, le domande che attanagliano chi è incerto? Anche questo sarà tema della puntata di oggi, ma prima di tutto, come di consueto, diamo uno sguardo ai mercati in queste giornate in cui ci hanno tenuto un po' con il fiato sospeso per le preoccupazioni collegate alla situazione della Grecia. Oggi in realtà vanno decisamente meglio, come già ieri. Wall Street ha chiuso ieri in rialzo, listini trainati dalle notizie positive sullo stato di salute dell'economia americana. Oggi tra l'altro sarà annunciato il PIL del primo trimestre e per questo c'è grande attesa, e dall'attenuarsi delle preoccupazioni per la Grecia. Anche Tokyo ha chiuso in positivo più 1,2%, ne beneficiano anche le quotazioni del greggio e anche l'euro, che si è rafforzato rispetto al dollaro. A Piazza Affari il FTSE MIB in questo istante guadagna lo 0,55%. Francoforte positiva più 0,21%, un po' debole invece Parigi, meno 0,27%, mentre Londra è anch'essa negativa, meno 0,23%. Insomma, contrastati questi listini quest'oggi, mentre a Milano il paniere principale ha per lo più il segno più positivo. Mediolanum è la migliore, meno 2,42%, in evidenza un po' tutto il settore assicurativo, che beneficia della riorganizzazione annunciata ieri per Sasa e Sasa Vita, e con Fonsai e Milano Assicurazioni anch'esse positive. Saipem guadagna il 2,32%, Intesa San Paolo nel giorno dell'assemblea guadagna l'1,81%, assemblea degli azionisti. Il titolo tra l'altro non è scalfito al momento dalle aspre dispute sulla figura del nuovo presidente del consiglio di gestione, e invece beneficia di indiscrezioni che farebbero pensare a una IPO sempre più vicina di Fideuram. Realizzi invece per Mediaset, dopo il balzo di ieri sostenuto dalle indiscrezioni confermate dalla società sulla partecipazione del gruppo televisivo alla cordata Sisal Post per la gara delle licenze Gratta e Vinci. Fra i negativi Parmalat meno 1,66%, Luxottica meno 1,49%, CIR meno 1,36%. Dicevamo l'euro rispetto al dollaro, al momento è a 1,33,11 sul biglietto verde. Chiusa questa lunga pagina, ma doverosa, sui mercati, sulla finanza, torniamo al nostro tema, quindi le pensioni contro un TFR. Una competizione aperta, ma sentiamo cosa ha scritto Gaia Romani nella nostra scheda. I fondi pensione battono il TFR. Nei primi tre mesi dell'anno il rendimento medio dei fondi aperti è stato pari al 2% circa, contro lo 0,5% del trattamento di fine rapporto. Ampliando a un anno l'analisi delle performance dei fondi pensione aperti, ovvero quando tutte le borse internazionali hanno toccato i propri minimi a causa della crisi finanziaria, il sistema dei fondi pensione aperti rivela un rendimento medio del 13,65%, con sette comparti che registrano picchi superiori al 35%. Ma nonostante questi numeri e i risultati innegabilmente positivi, i fondi pensione registrano ancora poche adesioni tra i lavoratori. Stando ai dati, infatti, nel 2009 si sono registrate solo 38.900 nuove adesioni, di cui circa 30.000 individuali, mentre il contributo medio per aderente è calato dai 1.530 euro annui del 2008 a 1.440 euro dello scorso anno. E torniamo a noi dopo questa scheda. Mi era distratta parlando con Marco Loconte di Fondi Pensione. Lui giustamente sottolineava il fatto che bisogna considerare questa sfida aperta con il TFR una sfida di lungo corso, insomma, sul lungo periodo. Sì, i fondi pensione vanno valutati nel lungo periodo, ma quanto è lungo il lungo periodo? Perché si tratta di capire questa cosiddetta sfida, quanto, cioè in che termini valutarla. Allora, diciamo che i fondi pensione vanno valutati nell'andamento correlato alle esigenze di chi desidera collocare una parte della sua retribuzione in un fondo pensione. 10 anni, 20 anni, evidentemente il periodo lavorativo di 30-35 anni è il periodo più congruo sostanzialmente per valutare l'andamento di un fondo pensione. La sfida tra fondi pensione e TFR, è il caso di ricordarlo, è sempre una sfida, è un po' un confronto tra pere e mele sostanzialmente, perché i fondi pensione investono sui mercati finanziari con dei criteri estremamente rigorosi per prudenza, per conflitto di interessi, per tutto ciò che comporta la trasparenza degli gli asset in cui si investe. E poi, una volta accumulato un montante, cioè una cifra finale, viene convertita in rendita, e quella sarà la pensione di scorta, la pensione complementare a vantaggio dell'aderente. Il TFR invece è un meccanismo di risparmio, ossia del denaro che non viene erogato al lavoratore, rimane in azienda o va all'INPS per chi lavora in azienda con oltre 50 dipendenti, si rivaluta secondo il coefficiente determinato dal codice civile, ossia 1,5% più il 75% dell'inflazione, ma non diventa previdenza, non diventa rendita, diventa un capitale che alla fine viene restituito. Sempre considerando che stiamo confrontando pere e mele, come dicevi tu, proviamoci almeno, certo, a fare una comparazione fra TFR e fondi. Ad esempio, nei 5 anni mi sembra di capire che in questo caso il TFR sia un po' indietro rispetto ai fondi. Sì, allora dipende poi quali 5 anni prendiamo. Evidentemente gli ultimi 5 sono stati particolari. Non, diciamo che non è possibile. A causa della crisi, ovviamente. A causa della crisi. Se poi ricordiamo il picco del 2000 e la crisi del 2001, Torri Gemelle, sgonfiamento della bolla high tech, beh, insomma, quella altra crisi ha inficiato quell'assioma che dice nel lungo termine investire nei mercati finanziari, e soprattutto e con particolare riferimento all'equity, cioè all'azionario, rende sempre ed batte sempre inflazione, titoli di Stato e quant'altro. Una regola sicura assoluta non c'è, c'è la statistica. Allora, le statistiche ci dicono che nel primo trimestre dell'anno i fondi negoziali, oltre che gli aperti, hanno fatto più 2% e il TFR più 0,5, più 0,6%. Nel 2009 i risultati sono stati ancora più vantaggiosi per i fondi pensione, più 8,5% i fondi negoziali, più 11,2% gli aperti, mentre il TFR ha guadagnato il 2%. Si è rivalutato del 2%. Nel 2008 le cose erano andate diversamente, ricordate, insomma, la grossa crisi, la fine del mondo finanziario per come l'avevamo conosciuto, anche se poi non tutto è finito, ma insomma i fondi hanno perso tra il 14% degli aperti e il 6% dei negoziali, e mentre il TFR si è rivalutato del 2,7%. Quindi diciamo che in tempo di crisi, in quell'arco, forse il TFR è andato leggermente meglio. Sì, noi abbiamo valutato l'andamento dalla fine del 2007 ad oggi, perché per capire insomma se siamo tornati a livello pre-crisi, ed effettivamente la stragrande maggioranza dei fondi pensione hanno recuperato tutto quanto avevano perduto in termini di rendimento, e questo è un dato da sottolineare e che diciamo è un dato rassicurante per quanto riguarda gli aderenti ai fondi pensione. Poi bisogna vedere anche da cosa sono composti questi fondi. Certamente, pensione. Le linee garantite hanno fatto evidentemente meglio di quelle a maggiore esposizione azionaria, insomma, chiaramente in questo periodo. 800 24 00 24 per chiamarci, o 349 238 6666. Sergio Corbello, presidente di Assoprevidenza. Le giro un messaggio che che è arrivato addirittura prima dell'inizio della trasmissione da Maurizio da Parma, il quale evidentemente aveva sentito questa mattina Soldi Dintorni che avremmo parlato di fondi pensione, che ci pone diverse questioni, tra cui anche quella del incentivare questa adesione perché è un po' bassa. Lui sottolineava anche il capitolo legato ai rischi della non autosufficienza. Direi che mi pare una giusta osservazione da parte del nostro ascoltatore. In effetti le tematiche legate all'adesione alla previdenza complementare, prima si accennava ai fondi aperti, io parlo dei fondi pensione come strumento in generale, evidentemente è una tematica molto significativa e di per sé non strettamente legata a una convenienza di risultato TFR versus fondi pensione, o meglio verso diverse linee di fondi pensione, le medie di per sé non dicono molto in effetti, no? Ma anche data un discorso che è a monte, è la comprensione della necessità di avere una seconda gamba previdenziale, ed è una necessità ineludibile posto che il primo pilastro cosiddetto darà delle prestazioni che sono significativamente molto più basse di quelle che abbiamo saranno significativamente molto più basse di quelle che abbiamo conosciuto in passato. Quindi bisogna sostenere l'adeguatezza del trattamento pensionistico di base con una seconda. In questo contesto è drammatica la l'università abbastanza ristrette di adesioni ai fondi pensione, in particolare dei giovani, e questa drammaticità, e vengo a quello che diceva l'ascoltatore col suo SMS, è ampliata dalla circostanza che non solo dobbiamo preoccuparci ormai della ordinarietà della vita di un anziano, quindi il trattamento pensionistico, ma di quella peculiarità che ormai l'allungamento della vita comporta, che è quello di dover immaginare un periodo estremo della vita in cui la intrinseca debolezza connessa all'età comporterà che l'anziano debba essere sostenuto con dei servizi particolari. I servizi particolari sono quelli anche che aiutano la vita quotidiana nella sua ordinarietà, lavarsi, vestirsi, mangiare, e questo non riguarda gli anziani malati, ma gli anziani in generale in quanto estremamente anziani. Non autosufficienza, a fronte di questo occorre è risorse. Questo, sì. È quello a cui faceva riferimento Maurizio da Parma, che ringraziamo. Bentornati a Salva Danaio, oggi ci occupiamo di fondi pensione di vario tipo, e siamo qui anche per spiegarvi quali sono, quanto rendono, quanto hanno reso negli ultimi anni. Con noi ci sono alcuni ospiti: Sergio Corbello, presidente di Asso Previdenza, Marco Loconte di Plus 24. Marco, dicevamo prima, forse c'è anche un po' ancora, nonostante ne abbiamo parlato anche noi molto, anche un po' di curiosità e disinformazione sulle proposte, sì, che abbiamo davanti. Ad esempio ci sono i fondi aperti, i fondi chiusi, forse vale la pena ancora una volta di spiegare di cosa si tratta. Fondi negoziali chiusi o di categoria sono i fondi appunto che si riferiscono ad alcune specifiche categorie di lavoratori. Per i metalmeccanici c'è Cometa, per i chimici Fonkin, per il commercio Fonte, per l'energia il gas Fondo Energia e quant'altro. Sono contratti che sono nati in sede di contrattazione di lavoro, parti datoriali e parti sindacali. Sono strutture no profit, vere e proprie strutture no profit, quindi non possono fallire, non tengono denaro in mano, si affidano a gestori professionisti, il denaro è custodito in una banca depositaria e dunque massima trasparenza e garanzia per gli aderenti. I fondi aperti sono invece lanciati da banche, compagnie assicurative, da strutture invece commerciali, hanno lo stesso banca depositaria e si affidano spesso a gestori esterni, possono essere sia a forma individuale che a forma collettiva, perché i fondi aperti possono raccogliere adesioni di gruppi di lavoratori di una stessa azienda e quindi operare così come un fondo di categoria, un fondo negoziale. Invece i PIP, i piani individuali pensionistici, sono delle vere e proprie polizze previdenziali che sono dunque strumenti individuali rivolti ai soggetti come professionisti, autonomi, partita IVA e quant'altro, che non dispongono di un prodotto, di uno strumento di adesione collettiva. Quindi abbiamo molti ascoltatori sia che ci stanno mandando SMS sia che sono in attesa al telefono, ai quali chiedo un attimo di pazienza. Volevo chiedere a Sergio Corbello, lei lamentava 3 anni dalla grande riforma del TFR il bilancio insoddisfacente dell'adesione, ci può dire brevemente a quanto ammonta l'adesione? Ora non non mi ricordo esattamente i numeri, probabilmente avete voi le tabelle in redazione, comunque siamo largamente al di sotto di quella che è il bacino d'utenza. In particolare fra i giovani, diceva. In particolare la partecipazione dei giovani credo sia intorno al 20-25%, con delle differenziazioni però enormi da categoria a categoria. Quindi il vero problema è di convincere i giovani ad aderire, e con quello che diceva anche nel servizio in precedenza, ad aderire con somme adeguate. Il TFR è una parte più un po' di contributo. Fausto da Genova, buongiorno. Grazie per essere stato in attesa. Grazie dottoressa, buongiorno e complimenti. La mia domanda è questa, se posso parlare. Sì, prego, prego. Ecco, io ho fatto l'adesione al fondo destinando il TFR. Una delle ragioni, al di là del fatto che ho scelto una linea prudente, quindi diciamo con un profilo di rischio molto basso, una delle ragioni che mi ha fatto propendere per questo, spero che mi diate conferma di quanto sto affermando, è la differenza fiscale che viene applicata alla liquidazione del TFR rispetto a quella che viene applicata anche al... Pronto? Sì, la sentiamo male. Allora, quello che l'ha fatta desistere dall'andare verso un fondo pensione è la differenza fiscale, diceva? Tra TFR e fondo pensione. Ah, ecco, Marco ha sentito meglio di me. Marco, allora, tu volevi rispondere, sì. Sì, allora, i vantaggi fiscali sono diversi. In particolare, quello a cui faceva riferimento il nostro ascoltatore accade al momento in cui si esce dal fondo pensione, quando si va in pensione. Il TFR è tassato più di un fondo pensione, è tassato al 23% mediamente. Il fondo pensione invece è tassato al 15%, ma per periodi di permanenza lunghi, fino ai 30 anni, si scende fino al 9%. Questo è uno dei vantaggi dell'adesione al fondo pensione. Un altro vantaggio preliminare, diciamo così, in sede di contribuzione. Il nostro ascoltatore ha detto che ha aderito con il suo TFR, ma se aderisse anche con una quota volontaria, anche minima, della sua retribuzione, anche lo 0,1%, il datore di lavoro è tenuto a versare una sua quota, e entrambe le quote possono essere messe a deduzione annuale, ossia consentono all'aderente sostanzialmente di abbassare il proprio importo imponibile e quindi di pagare meno tasse. Quota che è pari, se non sbaglio, in media all'1,2-1,5 della più retribuzione, o meno, sì, lorda. Queste e due che quote insieme si fino perde a un massimo, altrimenti, no? Altrimenti si perde, ed è un peccato, diciamo così. Fino a un massimo di 5.165 euro l'anno è possibile dedurre tutti questi contributi. Corbello, abbiamo un ascoltatore giovane, Alessandro, che ci scrive via SMS e dice: indipendentemente dalle statistiche, si riferisce ai rendimenti del fondi pensione, non è rischioso investire il TFR nei mercati azionari, anche se a lungo termine, visto la crisi? E fa un suo ragionamento. C'è un po' di timore forse in questo momento di crisi da parte dei giovani? Sì, ma credo un timore ragionevole ma ingiustificato. Teniamo conto che i fondi pensione sono degli investitori qualificati e sono degli investitori prudenti. Quello che dice il nostro ascoltatore, investire sul mercato azionario, è una semplificazione un po' eccessiva. I fondi seguono delle tecniche di immunizzazione del rischio, diversificano il rischio, cercano di ottimizzare il risultato anche dove si scelgono delle linee più rischiose, attenuando al massimo. Ecco, forse abbiamo avuto un problema telefonico con Sergio Corbello. Marco, bisogna sottolinearlo, infatti non sono fondi azionari, non necessariamente. Sono, no, quasi nessuno ha quote di azioni a linea, comparti con quote di azioni superiori al 50%, pochissimi, e sono comunque ripartiti in maniera molto diversificata, come sottolineava poco fa Corbello. Tra l'altro lunedì, sul Sole 24 Ore del lunedì, facciamo un monitoraggio di questa crisi, la Grecia, ma anche gli altri paesi, cosiddetti PIX, Spagna, Irlanda, Portogallo, qual è l'esposizione dei fondi pensione? Beh, insomma, vi posso... Questo è interessante, la Grecia ad esempio può... Vale sui fondi pensione circa i titoli di Stato greci, circa per l'1% attualmente, anche sugli indici internazionali obbligazionari la Grecia è più importante, oscilla intorno al 3-3,5%, per cui diciamo che c'è un approccio prudente in senso proprio rispetto alla crisi. Poi si potrebbe discutere sul concetto di prudenza. Per esempio, un giovane al di là delle crisi periodiche che ci sono, non sarebbe del tutto prudente se scegliesse una linea monetaria o garantita, perché avendo molti anni di fronte a sé può rischiare una parte del suo, dei suoi contributi, tra virgolette, mettendoli in una linea a maggior componente azionaria, e progressivamente, man mano che si avvicina alla pensione, ridurre la quota azionaria e dunque ridurre la quota di rischio in modo da consolidare i rendimenti ottenuti. È chiaro che questa è una modalità, non è una panacea, non sterilizza totalmente il rischio, ma è un modo per gestirlo in maniera proficua. Almeno così la letteratura internazionale si sta muovendo in questo senso ormai da diversi anni, decenni direi. Abbiamo ripristinato il collegamento telefonico con Sergio Corbello. Stavamo parlando appunto di giovani, poi abbiamo parlato anche con Marco Loconte, che sottolineava appunto il fatto che non si tratta sempre e necessariamente di fondi azionari. Marco sottolineava anche la presenza o meno della Grecia, del rischio Grecia in questi fondi. Vuole dire qualcosa, Presidente? Ma direi che periodicamente ci sono dei paesi a rischio, ovvero delle situazioni che rappresentano una rischiosità, però sono comunque, proprio per la diversificazione che i fondi compiono in maniera scientifica, sempre una componente marginale, parziale, dell'investimento complessivo. Quindi vengono ammortizzate queste rischiosità dal complessivo investimento. E poi non dimentichiamo che i fondi, crescendo, sempre più articoleranno i propri investimenti. Noi oggi parliamo solo di mercato finanziario, ma nel prossimo futuro, è un'esperienza che in Italia deve ancora consolidarsi, e vi sarà anche una componente immobiliare attraverso degli strumenti come i fondi comuni immobiliari, cioè, quindi si amplierà la possibilità di investimento dei fondi e si attenuerà conseguentemente anche il rischio connesso agli investimenti. Maurizio da Bologna via SMS al 349-238-6666 dice: non si parla mai dei costi di gestione dei fondi e del fatto che non si può uscirle anche per i chiusi. Beh, dei costi di gestione abbiamo parlato, Marco, più volte. Allora, i costi di gestione mediamente, rispetto, se confrontiamo, si tratta sempre di intendersi, no? Quando uno dice di più o di meno, è conveniente? Beh, è conveniente sempre rispetto a qualcosa. Allora, i fondi, vado un po' a memoria, ma mediamente i fondi negoziali hanno costi che oscillano per permanenze intorno, perché sono anche in base alla durata di permanenza nel fondo, oscillano intorno tra lo 0,2% lo 0,1% nel lungo termine a 35 anni, fino a un massimo di 0,5-0,6%, incidenza dei costi sul patrimonio. I fondi aperti costano un po' di più, si avvicinano, rimangono per buona parte sotto l'1%, ma si avvicinano all'1%, mentre i PIP costano leggermente più, arrivano al 2%. Questo per quanto riguarda i costi. Invece l'altra parte era sul il fatto che non si può uscirne dal TFR, si può passare a un fondo, invece non si può fare il passaggio contrario. Questo è un tema dibattuto. Secondo me parte delle resistenze, personalmente penso che possa arrivare anche da questo. È possibile perché l'operazione del 2007 è stata impostata un po', come dire, nel butta dentro. Era un modo per incentivare. Secondo me razionalmente è corretto incentivare l'adesione in vario modo e disincentivare il disinvestimento, cioè l'uscita dai fondi pensione, perché l'obiettivo è quello di far passare un tasso di sostituzione, ossia una pensione che sarà anche meno del 50% dell'ultimo reddito, fino a un livello un po' più alto, che non sarà il livello attuale dell'80% di chi va in pensione oggi, però sarà un po' migliore. E dare troppe finestre d'uscita, per esempio, io non credo che sia un grande incentivo all'entrata, francamente. Però si sta discutendo di modificare la normativa per dare possibilità di uscita. Il rischio è di prendere tanti taxi ma di non andare da nessuna parte. Uno sale e scende da un fondo pensione in vario modo. E però la libertà di salire e scendere magari rassicura un po', ecco. Sì, questo è una rassicurazione psicologica, ma il punto è sempre quello: per avere una pensione adeguata bisogna risparmiare in maniera adeguata nel lungo termine. C'è poco da fare. Purtroppo non ci sono altre soluzioni se non i reati, però insomma, francamente. Beh, ecco, allontaniamoci da questa ipotesi. Allora, il dibattito anche sulla libertà anche fra di noi, ma vedo anche dagli sms, insomma, sulla libertà di entrare e uscire dai fondi è la molto libertà, intenso. La libertà può comportare, e non dico altro, anche la possibilità di fare le scelte sbagliate, no? Si diceva durante il traffico che uno è libero di fumare, però ci sono dei divieti di fumo, e i divieti di fumo che sono stati introdotti da qualche anno non hanno suscitato sollevazioni popolari, anzi i fumatori sono contenti di non sentire il fumo al ristorante, per esempio. È una riflessione io che sottopongo. Io non fumo, però sono però per la libertà di fumare. Vabbè. Andiamo avanti con il dibattito spostandolo sui fondi. Renato da Roma, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Niente, io stavo aspettando la trasmissione, non ho potuto fare meno di intervenire. Io sono tra quelli che non solo non ha aderito, ma ha consigliato molte persone di non aderire. Addirittura. Perché sì. Lei perché è uno specialista di questi temi o soltanto per una sua convinzione personale? Ho condiviso a suo tempo i temi e mi sono fatto l'idea che il cosiddetto fondo pensione non è altro che un fondo praticamente mobiliare, un investimento di tipo mobiliare. Chiaramente titoli, azioni, obbligazioni, eccetera, ma di tipo immobiliare. Perché dico questo? È vero, ci sono gestori, ci sono sicuramente ditte serie, assicurazioni, banche, eccetera. Il problema è che questa cosa non cancella completamente il rischio. Quindi il rischio che si ha non solo la seconda gamba, ma Renato, la sentiamo piuttosto male. Comunque credo che abbiamo ben capito. Sergio Corbello, ha sentito la questione che pone Renato da Roma? Sì, direi di sì. Ho premesso che tot capita, tot sentenze, come insegnavano gli antichi. Il problema forse è posto in maniera un po' troppo semplicistica. Gli investimenti fatti in via alternativa di fondi di pensione non godono di benefici fiscali, che prima con estrema chiarezza ricordava Marco Locco. Due, se il signore in questione, purtroppo non lo sappiamo perché la linea è difficile, sì, ma è un lavoratore subordinato, nel fare degli investimenti propri e privati senza il veicolo del fondo pensione, non beneficia del contributo aziendale. E poi dobbiamo anche capire se questi investimenti che lui compie siano congrui rispetto a quella che è comunque una linea necessaria di quantificazione dell'investimento previdenziale complementare, che io calcolo sempre intorno al 10-12%, che 7% di TFR, questo vale rispetto alla retribuzione del TFR di ogni anno, più un po' di contributo datoriale e un po' di contributo del singolo. Il contributo, lo ricordava prima, al beneficio fiscale, quindi si ottimizzano sicuramente le risorse. Se io investo privatamente sul mercato, per carità, è una scelta sicuramente legittima, ma viene fatta dal mio netto, del mio portafoglio, e quindi devo anche recuperare un beneficio fiscale che diversamente non riesco a percepire. Marco, volevi aggiungere qualcosa? Poi ci sono degli ascoltatori ancora, dimmi. Il confronto col fondo mobiliare, ossia fondo comune, in parte c'è, però è da capire. Intanto i costi, i fondi comuni costano fino a 10 volte in più di un fondo pensione. Il fondo pensione, c'è una governance, una vigilanza da parte dei rappresentanti per i fondi di categoria, dei propri rappresentanti all'interno dei luoghi di lavoro, ma anche dei datori di lavoro, che è molto stringente, per cui non è dar soldi e sperare che vada bene. Il rischio, non è vero, il fondo comune, così come il fondo pensione, non annulla il rischio, ma il rischio fa parte della nostra vita, ma non lo dico per fare della filosofia spiccia. Le pensioni, quelle di primo pilastro, quelle garantite dallo Stato, sono appunto garantite dallo Stato. Lo Stato corre dei rischi. L'anno scorso il PIL italiano è sceso del 5%. Che rischio corre il lavoratore italiano? Il rischio che la sua pensione non venga rivalutata, perché è correlata con l'andamento del PIL, e se il PIL scende la pensione non sale. È curioso poi, ma questa è una considerazione così, una riflessione alta se vogliamo, il fatto che per una cosa nuova per molti come i fondi pensione non si vuole rischiare nulla. Poi, citavo prima il fumo, allora si sa che un fumatore su due non sopravvive ai 75 anni. Quale dei due fumatori volete essere? Due... Nessuno supera i limiti di velocità in automobile in Italia? Bah, vogliamo parlarne. Allora, quanto si rischia nella vita quotidiana e non si vuole, si fa fatica ad approcciare un meccanismo di gestione del rischio? C'è il rischio che è una cosa, e gestione del rischio è una cosa. Dall'altra parte c'è il pericolo. Il pericolo è qualcos'altro, cioè qualcosa di diverso. A volte si confondono i due piani e questo non aiuta a fare la scelta giusta, più utile per le nostre esigenze. Andrea D'Alecco, buongiorno. Sì, buongiorno. Io l'ho chiamato per due questioni. Sì. Uno, secondo me, un deterrente forte all'adesione sono i tassi di conversione in rendita, poi a scadenza. Nel senso che io ho visto più prospetti e comunque il montante io lo vado a recuperare in 30 anni circa. E 30 anni circa, quando uno ha 65 anni, vuol dire che li recupera a 95 e non lo si può giustificare con l'età media. 30 sembra strano, di solito si va sull'età media, quindi 20 anni circa. Anch'io ritengo che sia così, sì. Però in realtà ho visto più prospetti e tutti siamo intorno ai 30. Me li puoi indicare? Perché sono curioso, perché anch'io li ho guardati un po' e non mi torno a... Però no, con piacere, veramente, perché sono fare i nomi? Sono spunti, sì, sono spunti i nomi, certo. che di indagine, insomma. Ecco. Io ho visto il PIP Alleanza, il PIP Generali, sì. E anche su questo, anche sui costi, che diceva che intorno al 2%, io ho visto anche qua sono più alti, sì. Nel senso che io ho visto anche un 4,5 subito sul versamento più un 1,5 sul trattenuto, sul rendimento. Grazie Andrea, grazie, è uno spunto. Beh, il nostro ascoltatore si è messo attento, lì a scegliere, attento, ha scelto, ha fatto dei confronti e ha fatto la cosa giusta, nel senso che ha fatto il lavoro preliminare giusto. Certo, ci sono anche strumenti come i fondi aperti che costano di meno, i negoziali ancora di meno, vuol dire invece pagare il 4,5% oppure oltre il 2% andare a pagare lo 0,5%. Ricordo una statistica che avevamo verificato, allora per ogni punto percentuale in più che si paga nel corso dei versamenti si andrà ad ottenere il 20% di rendita in meno. Questo è significativo ed è lì che non ci trovavamo con l'ascoltatore. Io facevo il calcolo sui fondi negoziali e fondi aperti, ossia si recupera circa in 20 anni, che è l'età media, all'incirca anche meno, con dei buoni tassi tecnici, e il nostro ascoltatore invece aveva visto in 30 anni. E certo, pagava troppo di costi in questi prodotti che aveva individuato. Sergio, da Cremona, le chiedo di essere veloce perché siamo proprio in chiusura. Sì, ho i figli che insegnano e hanno aderito al fondo dei professori. Ecco, volevo sapere sì, cosa hanno reso Espero, sì. E volevo sapere il rendimento di questo fondo e se è possibile da parte dei miei figli aumentare la quota mensile che trattengono sullo stipendio per aderire sempre di più, insomma. Marco, abbiamo un minuto. Grazie intanto, Sergio da Cremona. Allora, i rendimenti, posso dare i rendimenti del primo trimestre dell'anno che sono stati interessanti, perché crescita ha guadagnato il 2,98%, l'1,7% invece la linea garantita, che è insomma una performance in un trimestre direi molto soddisfacente, poco sotto il benchmark, ma insomma comunque non è andata per niente male, almeno in questo trimestre. La gestione è recente, non sono partiti da tanto, per cui hanno avuto la possibilità di non subire la discesa del 2008 e questo è positivo per loro. Sicuramente può aumentare, ha la possibilità di aumentare la sua contribuzione. Il nostro tempo a disposizione è terminato. Io ringrazio Marco Loconte di Plus 24, Sergio Corbello, presidente di Assoprevidenza. Grazie a voi. Gaia Romani in redazione, a Salvadanaio, Alessandro Longoni a Soldi e Dintorni, in regia Pietro Lacorte. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Salvadanaio torna lunedì. Buon fine settimana, buon primo maggio a tutti.